professore. Sì, a Gianmari. Buonasera, e beh, a chi piove? Ma sta sempre piovendo. Boh, la giabilla da indo. Il cavo ce l'ha pigliata in due. Che mare lì, l'estate, ce la sogniamo. Sì, adesso cosa ti dico? Sì, sai così, se rimaniamo in casa. Dunque, è lo sabrosemo. Sì, non bisogna sperare, ha detto un altro baggio di lì, poi chissà. Ehi, le farà a caldo, vedrai. Già le farà. Già le farà. Non vuole cambiare. Beh. E c'è voce che dà ragione. Ogni tanto arrivi una sbarriata, ma forse. Sì, ogni tanto arrivi voce, arrivi. Sai chi mi offendeva, va? Ti ho vigilato magari. bisogna aspettare perché sarà che non cambia. Ah sai, già dico tu, il pocciaccio si dio via tra i tiochi. Ma che so sì, gioco col primo piano. Sto calduccio, però cagato a passare da ratti, non credo che sia tu facile. Ci andiamo bene, andiamo. E allora, per carità che... stavo guardando al computer, quelli là, quindi sono ben mire. E per un'ora mira a Maitelli, a quest'ente. Ah, di questi di fuori, la propagazione. Eia. Ma in banda però erano, Ce n'è parecchio, ce n'è... È solo che sono lontani. Qualcuno vicino a te ogni tanto. Sì, infatti, qualcuno vicino già c'è sì. E per quello bisogna andarci piano piano. Infatti, allora. Noi abbiamo sempre piano, in presa, lo facevo in presa. Mi fa piano passare da lontano. È proprio così. Ok, è un guia. Per carità. A chi sa ancora in campagna? Ah, ma chi se lo ritoccheremo? Tra serra e tra vegliesi. Infatti, sono a 30 la serra, se no si innalza prima. Ma io penso che... salvo che non ci abbia molte cose da fare. Sì, Giulia. Speriamo di no. Se dai, c'è tutta la rimanna che dà. Saranno, però c'è chi lo fa. Infatti, c'è chi lo fa. Se ci rimane lì. Certo che... aprendo, come si chiama, la serra così... magari che piaccia qualche cosa ce la fare, per cui deve stare per forza tutti i giorni. Ma che sviluppati fa anche dai gatto, cioè sei tranquilli in casa, gatto, mia lì in casa, ogni tanto fa la passeggiata, e invece a campagna. Anche quello è uno svago, Infatti anche quello è uno svago, sì. Purtroppo. Ecco che sono andato stavano a fare. Io se scendo, prima ci scendevo molto spesso, quasi in estate viene scendevo anche 15 giorni là. Eppure è vero, ma ci sono mito io, campagna mia. Pure è vero, ma vanno, saranno. Non credo, no. Faro magari forse qualche cosa, poi mi innalzo. Ma con i calci non più, sì, che c'è delle cose da fare per quanto, ma con tutto il tempo già vanno. Che basta un'ora ogni sera, no? Basta un'ora ogni sera la cosa tra fai, sa come lo fai, fai benissimo. Però una settimana, se succede tutte le settimane, un'ora solo, se lo fai pulito, capito? Certo, se fosse abitato lì sarebbe stata diversa la questione, ma come sei lì e lavori anche e più bene. Ma scendere qua, no. Oh, i. Sì, è una cosa proprio... Se bisogna starci finché sei lì, va bene, però... A scendere, salire, poi con questo tempo qua non fa. Sì, vabbè, se sei in macchina, però queste giornate così, no. Però, ripeto, chi c'ha da fare, magari come può essere Bacchise, è già tutto un altro discorso, magari anche se piove se ne va dentro le serre e ci lavora e va bene. Certo, fuori non fa niente, assolutamente. Forse per quello magari che dentro l'acqua non li tocca e per cui e lo fa benissimo, capito? Infatti, lo fa benissimo, sì. E purtroppo per lui adesso magari già la 30 la sera sarà. Non credo che sia fuori, no. Se sta sempre più vicinando, come fa? Oh, l'acqua di un malanno, capito? Ah, poi specialmente a una certa età, capito? Mentre uno è giovane, vabbè, è diverso da questo, ma a una certa età, certo, queste bagnate così, non sai come entra la malattia di fase. Infatti, è così. Oramai non c'è il problema, tu di campagna, so io, per carità, già è bella la campagna, è bella, ragazzi, perché un sabato sera o domenica se scendi giù con la famiglia e puoi fare tutto quello che vuoi, mentre in casa non lo puoi fare, anche a cucinare arrosto, eccetera. In campagna lo puoi fare, in casa no, perché sennò se non vieni per la casa per una settimana non esci più. Infatti, devi farci così. No, scendi in campagna, fai prima, fai, e poi secondo com'era, se non riesci da pigliare la guida, se l'ho parato, fa un bel bogo in campagna, mi sono parato, me ne avrei portato i cani lì. Non ti accesso niente, è meno male ancora mangio la macchina, se la macchina hai solo con la base brutta. Infatti è così, ma lasciamo perdere, va. È così, mi sento parlare nell'altoparlante supplementare, lo sa? A me? No, io mi sento parlare come ci si parli e ascolta. Sai che non c'è qualche altro apparato acceso? No, con questo nuovo, questo presuntivamente. Mi sento soffiare nell'altoparlante. Sai che non c'è il PA acceso? Il PA? No. E qua non c'è scritto nulla, se fosse stato acceso sarebbe uscito il PA, ma è piano. Quindi fai ancora lo spinotto dietro magari, se non sia lo spinotto mezzo entrato. No, è tutto dentro, nonno. Ti sento fischiare. È perché mi sono messo l'altoparlante vicino all'altoparlante esterno, eppure mi fa questo effetto. Come ci sei, parla e ascolta, poco a poco lo sento, capisci? Se ti sta facendo la cosa, ti sta facendo da ripetitore. Niente. Super apprezzicato sembra, bro. Infatti, è una cosa che non va bene. Non succede niente, tanto evidentemente questo qua è così, infatti. Mi sento, va. Ti senti dentro? Certo. Allora c'è qualche cosa che sta trasmettendo sull'autoparlante. Aspetta, prova a togliere l'autoparlante, certo. No, no, è anche, da, anche senza toppare la testa, come sento. Fischiare. Qui, soffio. E mi sento. Ma anche l'altra radio c'hai accesa? Ma è la, quella là. Il portatile c'ho. No, che non stia facendo attrito il portatile. No, ma il portatile. Era spento, me lo fa lo stesso. Boh, ma no, non lo so. Non lo so, c'è qualche cosa che non sta viaggiando bene. Ma la radio no, la senti perfetta, per cui no, no, non succede niente. Una volta la radio arriva a te perfetta, per cui non c'è da pensare a niente, capito? Boh, ma non lo deve fare, perché io ce li ho, le due colonnine ce le ho attaccate insieme. E mette questo e fatto così, dove ti richiatto? Boh, sta una cosa così fatta, boh. Ma poco a poco, non molto, ma poco a poco, per cui non succede niente. Non succede niente, e poi se ti di fumare da lì, vuol dire che dai no. Ma quello non si vede. Perché siamo un po' lontanino. Sì. Per carità. Ma Graziano, non l'hai sentito, no? No, non l'ho sentito per niente, è già un po' di giorni che non lo sento. Avrà TMR acceso. Ma io già ce l'ho acceso, ma no, non si sente nessuno. Aspetta, vedete, è migliore questo, dai. A me sentiamo un po' di fracasso qua, là non c'è nessuno. Non entra quasi nessuno mai lì. Tutti morti. Tutti morti, ho sentito Graziano lì. Tutti morti siete! Devo vedere la giura a vita. E della gita, beh, non prima sei tu, chi ti sei scelto la sedia di San Paolo. Certo che ne andiamo, vabbè. Dove ci vuoi intendere i civili? Va, sennò, se no, se stavi inteso, va, se l'avevi atteso. Se l'avrebbe atteso, magari si avrebbe sentito parlare, sarebbe entrato. Infatti, ma invece me non avrà atteso, non ve... Prova a chiamarla, Filippo. Buonasera. Buonasera anche a lei. Pace bene a tutti. La pace sia con lei. Allora, figuri, cosa mi raccontate di bello? Aspetta che te lo racconta Gio Maria. Gio Maria. Dimmi, mi era allontanato un attimo. Buonasera Gio Maria. E allora, come tu sta prendendo il sole? Ciao Gaffra, buonasera. Ben risentito. Mi sto assoliando, mi sto. Infatti, bisogna stare fuori un po' all'aria aperta a prendersi il sole e guardare il cielo azzurro. Ma ti immagini questo tempo, non ne ha voglia di fare un po' di caldo, no? Non ne ha voglia, cazzo. Boh. Ma ti immagini che... Gio Maria, per ricrescere l'erba, se no non c'è gusto, no? Così è purtroppo. Fatto. Sì. Chissà, domani potremmo mettersi cosa, ancora un altro bacio di dinna abbiamo e poi si vedrà. E anche domani ha messo acqua, sì. Ha messo acqua anche domani. E vabbè, chissà che ci ripensi Salvatore. A me pare Salvatore stanno e fanno un po' troppo malo. Chissà, se non si butta. Che non venga adotta un'ora da bere un gallo. Beh, solito fa sempre così, Tutti in una volta, questi che si brucia completamente. Meno male già, ne ho preso poco solo io, già fra. In ogni caso anche se lo puoi prendere ti viene salita, perché non ce n'è, quindi se lo prendere un po' d'acqua. Ma cazzo, questo tiro di fa, cazzo, spaccava la ruccia del sole, cazzo. Ma quest'anno proprio è strano, L'anno scorso in questo periodo stava facendo molto caldo, no? No, anche l'anno scorso ha fatto così. arrivi da metà giugno, poi dal 20 ha iniziato a fare caldo. Oh, boh, io non mi ricordo. Io me lo ricordo perché in questo mese l'anno scorso avevo accompagnato la mia figlia a Cagliari ed era verso il 20. Ma, boh. Ah, ti ricordi tu, Giafra, l'anno scorso com'era in questo tempo? Si stanno spostando le stagioni semplicemente, ma da quello che hanno detto sarà sempre peggio, non è che migliora. Tutti stanno parlando, però poi a fare le cose non le vuole fare nessuno. Tempo 20 anni che sono abbastanza pochi e non ci avremo più i ghiacciai e anche il polo sarà mezzo sciolto, quindi dei veri grossi disastri ci saranno in appena 20 anni da adesso. E chi ci può mettere rimedio? Nessuno. Ma un attimo, magari lascio un attimo, ripeto. Sì, chissà se sarà quest'anno o si arriva, hanno detto ancora un altro paio di giorni, poi parte il caldo. Sì, è vero che parte il caldo, però sarà quel caldo torrido di colpo e oltre a distruggere le persone distrugge anche le piante e tutto quanto, perché sta seccando tutto, un po' esce acqua, un po' esce il sole e poi torna l'acqua, è un disastro. Ma chissà che cambia, chissà che cambi e comincia a fare il caldo suo. È una cosa un po' strana. Io sto cercando di seguire quella nave, ma me l'ho perduta in cammino. Stavi seguendo? L'Aquarius con la nave carica di immigrati che sta puntando su Valencia insieme a una nostra nave militare. Ma è ferma, sta andando a passo del sindacale, che è di fronte alle coste di Marsala, praticamente in Sicilia. Perché ha detto che c'ha problemi di coso, cioè di motore. E stanno cercando di aggiustarla dentro, cioè i meccanici della nave militare dentro che già stanno cercando di metterla a posto. Sì, guarda, è proprio di fronte a Mazara del Vallo in questo momento, è attaccata, c'è la nave d'attilo della capitaneria di porto, che è molto grande comunque, non è una motovedetta, è una nave proprio abbastanza capiente, però sono anche questa, mi pare che c'è una mezza carretta questa Aquarius, non ho capito neanche cosa ci faccia di lì a caricarla di persone se poi si guasta pure il motore. E infatti se si dovesse ritirare, ma già lo sanno loro perché sono lì per prendersi i soldi, che se no, se non lo fanno, i soldi non ne prendono. C'è un po' di gente gonfia in giro. Ci sono molti che stanno facendo i furbi sulla pelle degli altri. E poi ce li ritroviamo in mezzo strada, questa gente, senza altra parte, buttati lì. Da un paese diciamo disgraziato finiscono un altro peggio. Infatti, invece hai sentito i francesi come ci stanno prendendo? Ci stanno prendendo a così. Caspita. E quando mai loro non se ne accorgono cosa hanno fatto, che hanno chiuso le frontiere invece. Ma infatti si sta verificando l'assurdo proprio. È una cosa allucinante. Se ci pensi un attimo, prima ti fanno i casini e poi si lamentano pure contro di te che il casino non è fatto. Cioè, siamo proprio veramente al paradosso oramai. Sono quelli che ci hanno vivo a Macron, sono degli asini con tanto di coda e orecchie. Niente, ma già gliel'abbiamo detto che ci dovranno chiedere delle scuse, prima guardarsi in casa loro cosa hanno combinato e poi venire a chiedere scuse a noi. Ma infatti chi va in montagna le ha già detto, aspettiamo che esca un pochettino di caldo quando la neve si scioglie, ne vuoi vedere di donne e bambini morti, respinti da quella gente lì? Ci sarà tutto il confine italo-francese pieno di cadaveri. Infatti sono tutti bloccati lì, sono bloccati perché non li fanno entrare e dicono cosa a noi, dicono che vengono a dire cosa a noi, ma che si guardino le porte di loro, si guardino bene. E questo è tutto per l'ingordigia tremenda che c'hanno, perché tutto nasce dal fatto che hanno voluto fare a tutti i costi la guerra. Hanno fatto la guerra, cioè, hanno tolto via con l'impiegato di Gheddafi e poi si sono andati dopo che hanno fatto il casino, capito? Adesso di là non c'è più niente, ci sono bande, tutto bande, non si capisce chi comanda e i casini ce li trattiamo noi. Infatti questa è colpa sia dell'America che di loro francesi anche, che volevano fare guerre, contro guerre, e a voi dobbiamo noi la guida, che dobbiamo essere noi a prenderci tutto quanto. Infatti, no, cose assurde. Poi i governi che c'erano prima sono proprio veramente dei venduti che non ne possono più, guarda, fanno anche schifo, se dovrebbero stare zitti quelli che c'erano prima, no? Che si facciamo tanto grandi. Pare che se non ci fossero state le elezioni eccetera, queste cose qua, volessero fare un accordo per mettere dentro tutti in Italia per 10 anni tutte queste persone che venivano da questi paesi, cioè, ma ti rendi conto che follia? Infatti, ma loro pensano che siano molto grandi queste persone, quando parlano scrivono che siano dei di loro, invece io gente ignorante che non sanno neanche cosa stiamo dicendo, però già hanno capito che bisogna stare zitti e cose che noi dovranno fare le scuse a noi dovranno fare, perché siamo noi sempre che andiamo di mezzo, non loro. Purtroppo è così. C'è la gente, c'è troppa gente sia in Europa sia anche in Italia che dice armatevi e partite, gli altri però devono partire. Infatti, gli altri che devono partire, capi bonimu siamo sempre noi, però. Se sembriamo il coso di che accogliamo una mondetta sempre. Che poi parlano tanto d'accoglienza, non sanno neanche quello che vuol dire. Se accoglienza è trovare tutte queste persone, basta guardare a Sassari anche nel piccolo. Tutte queste persone che sono lì dalla mattina alla sera buttate di fronte ai negozi, che se lo fai tu magari si mettono pure dentro. Non lo so io, ma quando mai non si pensa, ma chi ce le manda lì queste persone, perché stanno lì? Cioè sono cose assurde veramente, cioè li vedi buttati in strada, ma noi stiamo pagando per darle un letto, per darle una camera, per darle un'accoglienza, anche per farle studiare magari ogni tanto, o per vederli lì, anche da Predagnieda, se vai davanti a Cesaraccio, li vedi, davanti in via Napoli noi parliamo, è tutto pieno, cioè si mettono lì, quando apre il negozio sono anche questi. Ma qual è l'accoglienza? Qual è l'umiliazione e basta? Infatti ce ne sono che sono manco nei negozi e cose. Si viene qua al latte dolce, ogni supermercato ce n'è uno, due, e trovi, aspettano che gli dici qualcosa. Purtroppo Salvini dice che gli stanno dando 35 euro al giorno, ma io non ho visto nulla anche lì, sì. Che se non pigliano nulla. Io credo che, non lo so dove vanno a finire i soldi, ieri guarda, ho visto un'intervista di un tipo che fa accoglienza non ha neanche saputo rispondere quanti soldi da darva in tasca a questi immigrati, no? Non ha saputo rispondere. Lo sai cosa fa? Li porta a sciare. Dice, ma io sono in montagna, cosa posso fare? E li porti a sciare. Questi vengono dall'Africa, li porti a tenere dei soldi dei contribuenti per portarli a sciare. Ma la gente è fuori di testa, veramente. Non lo so io, di qua so che ce li ho vicini dove li ospitano. E so che lì sono trattati abbastanza bene. Sì, dove ci sono i centri, dove c'è gente seria, indubbiamente qualcosa fanno, ma poi non li puoi lasciare al Parco Lobrado lì andare, cioè non va bene, devi dare un'istruzione. Poi qualche somaro, perché noi di somari ne abbiamo tanti, si mette a fare confronti senza sapere neanche quello che sta parlando con i nostri immigrati quando andavano in America, cioè la prima cosa che facevano questi ci mettevano su quell'isoletta grande di fronte a New York, stavi lì in quarantena per vedere se c'avevi malattie, perché se no ti mandavano a calci nel sedere indietro e poi dovevi filare dritto, se no erano guai. Ma qua c'hanno il campo vicino e vanno a giocare. Io sono entrato dentro e li ho visti, chi giocava a carte, che quello e quell'altro, chi lavorava lì. E ce ne sono molti che sono impegnati a coltivare la terra, mi dalle suore. Ma vedi, di lì imparano qualcosa almeno, cioè li tengono impegnati. Ma non a rimanere al caldo, al freddo lì, davanti, buttati in strada come randaggi. Sicuramente tutti i religiosi hanno una maniera migliore di rapportarsi con queste persone, però tutti questi privati strani che escono fuori, che di colpo diventano generosi, mi sembrano un pochettino gonfi, diciamocela tutta. Infatti diventano un pochettino... Ah, ma qua sono abbastanza bravi le cose, che anche le cose gli hanno detto, se volevano lavorare andavano lì dove c'è il terreno, e ho visto che lavorano e si tengono impegnati. Chissà come vanno a finire queste cose. Una cosa è sicura, delle tante incertezze che abbiamo, una cosa è sicura, che dalla parte della Libia ce ne sono a migliaia, stanno solo aspettando un bel tempo per andare, e poi tra l'altro questi non vogliono neanche rimanere in Italia, perché obiettivamente cosa c'è in Italia, cosa fa? Puoi andare in Germania dove c'è lavoro, o addirittura nei paesi della Svezia, Danimarca, eccetera. Però di lì ovviamente anche lì non c'è posto per tutti, capito? Ogni tanto devono pensare anche ai loro cittadini, anche quelli lì. Che faccio? Ma se no che vengo, diluviendi vengo. Invece che sta piovendo forte. Sì, ti confermo, sta piovendo forte. Io lo vedo qua dalla finestra. Sta piovendo, questa notte sembrerebbe che sia prevista anche temporale, tanto per cambiare. E quindi una giornata autunnale, se non fosse perché fuori c'è il caldo nonostante tutto, però vista da dentro c'è anche buio. E infatti sembra che ci avrà da il coso notturno, sembra che sia sceso. Ed è presto, sono le 18:40, di norma ci dovrebbe essere luce almeno fino alle 7:30, siamo già oltre metà giugno, cioè quasi a metà giugno, ma sta piovendo forte, questa donna qua sta piovendo forte. E infatti, sta piovendo parecchio, chissà che io devo andare a prendere poi la signora da mia figlia, e mi devo infondare da bui. Sono dovere. Infatti, è il mio dovere, però quando nel fondo mi ci muo driccia. Guarda, la cosa importante è non provare il traffico, perché se sei bagnato questo è per dire acciacchi. Guarda, adesso mi sta scendendo il cielo, ho fatto una specie di boato e sta proprio, come si dice, diluviando. Sì, sta suonando, sta. Prima esce la luce e poi esce il suono. Vediamo se Gian Maria è rientrato. Gian Maria, dove pure c'è propagazione, nonostante tutto. Si fa che arrivano, non arrivano neanche forte forte. Da poco fa arrivavano forti. 7-8 sono, non sono tanto deboli neanche. Non sono neanche tanto deboli. Sì, la situazione è ancora triste qua, vedo. Adesso c'è anche il vento forte, se di colpo è sollevato questo vento, sente fischiare. Speriamo che non me ne butti l'antenna. Sì. No, io già ho abbassato la serranda perché mi stava bagnando la finestra, mi stava bagnando, quindi ho abbassato tutta la serranda. E comunque è puntuale, perché io ho 19, 20, 21, 22, con temporali e schiarite, temperatura a 18 gradi, quindi in sotto e calo. E niente, che capisce, bravo. Domani sembrerebbe allo stato attuale tranquillo, anche se questo tempo cambia molto rapidamente. Venerdì, sabato e domenica dovrebbe essere tranquillo. Sì, no, ha messo fino a venerdì questo tempo così, l'ha messo. Invece venerdì è un po' variabile, però da sabato dice che ha messo caldo. Sì, caldo, diciamo, sento di sotto, quando dai 16 ai 23 mi dà come caldo, no? Vediamo bene, purtroppo cambia molto rapidamente oramai il tempo, quindi è anche difficile fare previsioni. Domani dovrebbe essere così così, pioggia non ne dà, però vediamo, perché è una grossa perturbazione che si sta muovendo. Sì, non si poteva rimanere dove era, in Spagna. Dice che è una perturbazione che è venuta dalla Spagna. Sì, dalla Spagna e quindi dall'Atlantico, come sempre arrivano tutte da lì le nostre che ci interessano. Poi quando si incontra con l'aria calda che da noi arriva dall'Africa succedono i grossi guai. Buia sangue all'uguira. Allora così non abbia ducca da noi. Anzi, noi ci abbiamo, diciamo, la parte nord Sardegna interessata, ma se vedi l'Italia è proprio messa male dal nord fino oltre il centro. Tutto temporali, tutto pioggia molto forti. Ah, ne senti niente. Ne senti forti che arrivano? Stanno alzando S9. S9 sono in FM molto. E quelli che in FM ce ne sono, saltano attorno alla propagazione. Deve essere che il vento me la sta tornando a portare. Sono dalla Spagna. No, almeno sembrerebbe la Spagna qui. Gli spagnoli ci vogliono bene, ci vogliono. Siamo abbastanza vicini, Siamo abbastanza vicini alla Spagna. La Francia poi ce l'abbiamo proprio la tre passi. Ultimamente i francesi non ci sono molto simpatici. Sì, i francesi. Sapeva che poi ci verranno a chiedere scusa di quello che hanno detto. Sì, già stamane stavano iniziando a cambiare il tono, hanno detto che erano molto nervosi. Se sono nervosi loro, cosa dobbiamo dire noi? Noi ne abbiamo più di loro, ne abbiamo, ce l'abbiamo quasi tutti noi. Questi migranti, tutti vengono dalla parte nostra che sono più vicini, però a loro non li fanno passare per andare in Francia e in altri posti. E poi anche in Sardegna stanno aumentando a dismisura, perché noi siamo molto... tutta la parte del Cagliaritano, se tu ci vai in macchina anche con la radio eccetera, senti senza problemi i paesi arabi che parlano. Sì, infatti, ma chissà che non ci abbia chissà goggia, sperando che riescano a chiudere dalla parte della Libia. Pronto? Sì, a Gianmarino. E rientro subito con c'è gente, dai. E lasciamo qua. Ok, ciao Gianmarino, se stai chiudendo, buona serata. E anch'io adesso vado, perché mi sa che stacco qualcosa, perché sta veramente piovendo forte adesso. Anche se tutto sembra in ordine, stazionare al minimo possibile, però sta diluviando. Fai bene, allora se sei in un punto brutto. Io sono in campagna, zona strato comunale, e qua sta diluviando. E allora lì sì, se c'hai così di cose forte, conviene alleggerirsi un po'. Vabbè, le antenne sono a 30 metri di distanza per questa sicurezza, però sai, c'è anche il vento, c'è anche forte il vento, vedo gli alberi che si muovono, c'è acqua di vento. Infatti, sta piovendo parecchio, sta piovendo. Ok, dai, ti saluto. Passo, tanto sono quasi, le 7:10. E ci sentiamo. Buona serata, alle prossime anche a chi è in ascolto. E aspettiamo un po', vediamo cosa succede. Sì, lasciamo qua, ci sentiamo, dai, lasciamo qua, se vuoi rientrare, tanto dopo rientrerà anche Battiglio, rientrerà, ok, dai, ci sentiamo. Ok, ciao ciao, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera anche a te. Buonasera. Oui, ciao, ciao. E come va? Tutto ok, ma non mi conosci tutto. Sì. No, perché ti sento un po' tutto come che se fosse un po' pigra. Come mi senti? Come se fosse? Un po' fretta di radio. Boh, strano. Io mi sento bene, c'è il pallo ascolta, mi sto ascoltando, mi sento benissimo. C'è come l'affare che l'eco che c'hai, forse quello. Vabbè, quello c'è. No, quello c'è l'eco, vabbè, quello sì, ma è appena, non è nemmeno tanto. Franco da Sorso sì. No. Io sono Gianni da Sassari, doppio rum, avanti. Ehi, ciao Gianni. Sai, un altro timbro di voce, ciao, che non ti avevo riconosciuto. Me l'avevo immaginato, me ne sono accorto che non mi ha riconosciuto. Mi ha detto ciao, però non mi ha detto il nominativo, ho detto non mi ha riconosciuto, squalo. Sai, un altro timbro di voce, che con quell'altra era più grossa la voce. Cioè qua c'era più fine. Questo è un altro apparecchio, ogni tanto ne faccio girare uno, capito? Ogni tanto puoi farlo girare anche l'altro. Oh, yeah. Il problema è che c'è un microfono nuovo, lo sto dando, se interessa a qualcuno, non l'ho mai usato. Un ZG MP5, nuovo, proprio con scontrino e tutto. Non l'ho mai usato. Non entrerà qualcuno se gli serve un microfono. Non entreranno. Ah beh. Se non già rimane lì non mi chiede da mangiare. Non l'ho mai usato. Siccome c'ho il mio coso, la mia stazione è fatta a piani. E praticamente tra un piano e l'altro non ci sta, se no non l'avrei messo. Se voglio farci stare quello dovrei eliminare quello del Galaxy, quindi non mi piace eliminare quello del garage perché va bene. L'ho comprato per mettere un altro apparecchio, invece non ci sta come altezza. Ahia, compreso. Un piano, un po' d'apparecchio, un altro piano, un altro po' d'apparecchio. E non solo, apparecchio, alimentatore per ogni apparecchio. Alimentatore, rosmetro, no, rosmetro è per tutti gli apparecchi, però rosmetro, wattmetro e accordatore, quello è per tutti gli apparecchi, però diciamo che l'alimentatore, c'è un alimentatore per ogni apparecchio. Ho capito. Ho capito, sì. No, io ne ho visto una di stazione un po' di anni fa, che questo ci aveva impegnato tutta la camera, una camera da 4x4, tutta impegnata e intorno ce l'aveva. Vabbè, ma no, io ce l'ho tutta ben messa la cosa, non ce l'ho una cosa sull'altra come fanno certi, no, io ce l'ho tutti ordinati. Va bene così, non voglio esagerare, è già troppo esagerato così, perché diciamo una cosa, che sono tutti per la stessa frequenza, cosa ne fai tanti apparecchi? È una cosa che ti prende l'occhio e basta, non è, c'è diversi apparecchi, però tutti vanno alla stessa frequenza, cosa ne fai? Per averne tanti apparecchi con la stessa frequenza non te ne fai nulla, bastano uno o due e boh. Ce n'è fine troppo. Io ne ho quattro stazioni, più c'ho, ne ho uno nel mobile, nuovo, poi ne ho un altro portatile, anzi altri due portatili. Insomma, già penso un po' che questa frequenza di sud. Caspita. Ci hai messo troppi soldi, ci hai messo su. Ma. Ah, se piace averli, quello sì. L'importante è che funzionino tutti bene. Sì, quello sì. Ti stavo dicendo che i miei sono tutti nuovi, sono immacolati, sono comprati da me, nuovi e messi lì. Non ha toccato nessuno, non hanno girato lì. L'unico che ho a seconda mano è il Galaxy. Ecco, io di nuovo non lo trovi. È nuovo, ma... l'ho preso a seconda mano, dico, da persone che lo trattavano come si deve. Adesso questo qui non mi ricordo manco da chi l'ho preso a Ciclesi, me lo dici, non me lo ricordo. Questo Galaxy. E poi l'avevo tutto quanto riverniciato bene. Ma questo qui mi pare malato Gio Maria, mi pare. E Gio Maria me l'aveva dato. L'ho tutto praticamente... era nuovo, però gli ho voluto dare una rinfrescata, l'ho fatto tutto quanto nuovo, praticamente perfetta adesso. È fatto bene, no, io l'unico che ho nuovo è questo qua, che ho avuto da un mesetto fa. Ma tu avevi smesso per un bel di tempo, mi ricordo che i muratori ti avevano tolto l'antenna, non so cos'era successo, e poi te l'avevi piazzata. No, ne era caduta, si era tagliata proprio sotto dove c'era lo stilo, lì c'era tagliato, se ne è caduta, poi con Bacchisio l'avevamo recuperata e ho lasciata così, non ne avevo messo altro. Un 10-12 anni fa si era tagliato e poi l'anno scorso ho deciso di mettere su questa antenna qua. Quella che ha fatto Luca, così? Infatti, perché io me la stavo ordinando da fuori, una specie di manto, babbo, una cosa del genere. Aspetta, adesso. Allora, ci siamo? Hola? Attenzione, binario 23, cambio. Deve essere tutto storto col binario. E oggi c'è poca gente, chissà perché. Vabbè, abbiamo speso un po' di soldi, questa frequenza proprio è andata a finire proprio allo sfascio. Vabbè, l'abbiamo riaperta una quindicina di anni fa, l'abbiamo riaperta io, Natalino, Claudio. Ci siamo trovati un giorno e abbiamo deciso di riaprire tutto, se no si sentiva solo poco e nulla sentiva. Tanto quello strisciocchio. E la domenica c'era Gio Maria, la buon'anima di Mario Mao, sempre. Qualche d'un altro, ma proprio di raro. Solitamente Giovanni e Mario c'erano sempre. Ma per il resto qui non si sentiva nulla, era sempre QRM e basta. E allora mi sono ricomprato tutto, c'avevo un apparecchio omologato e da lì ho ricominciato, prima con l'antenna sul terrazzo, poi di nuovo ho rimesso l'antenna sul tetto, poi mi ho rimesso l'antenna nella macchina, insomma. Io sono stato il primo dopo tanti anni che mi mettevo l'antenna sulla macchina, poi hanno cominciato gli altri, hanno messo anche qualcuno l'ha messa sulla macchina lo stesso, ci divertivamo quando andavamo fuori, quando tornavo dal lavoro, poi adesso ho cambiato gli orari di lavoro, tutto quanto, è inutile che vi raggia, cos'è? Poi ho cambiato anche la macchina, adesso la macchina nuova non è bongo. No, io mi, sino a ieri sera c'avevo l'antenna con la calamita, ci ho messo, tanto che stavo scendendo ai campi a parlare con qualcuno, e invece nulla da fare, sino a che non so che arrivi dai nonni, non l'ha idratato. Ma non c'era nessuno? No, non c'era nessuno, è entrato soltanto, aspetta, Marco e Bu. Vabbè, ma prima d'estate con Marco lui ci trovavamo al mare, a volte io scendevo verso Platamona, li trovavo, ci fermavamo a fare una quattro chiacchiere, sa, era diverso, adesso c'è meno popolato, c'è poca gente, ma comunque ogni tanto già si sente qualcuno, lasciate quello. E quello sì, ogni sera già siamo tre o quattro, già ci siamo a Puglia. Ogni tanto va bene che ci sia qualcuno, prima era molto più popolato, sul canale 10 c'era abbastanza gente, entrava, poi si è dissolto nel nulla, prima lì era canale Monitor, se ci trovavamo tutti lì. Ogni tanto io giravo, ascoltavo anche gli altri, ma solitamente restavo lì. Ma per me sono tutti amici, quindi dove c'è gente vado. Che fai? E anche io sono così, dove c'è gente che ha aperto il canale e ci entra e ci va via. Due chiacchiere e poi canosi, si sgarra, arrivederci. Attenzione collega, se ascolti in Isola Sarda che chiama, cambio! Cappa collega della Sicilia, la fettola di Paletta, buonasera, la grande isola, avanti di nuovo, sono in compagnia dell'amico Tore Squalo, avanti. Vai tu. Il pari due, è sparito, anche ieri sera abbiamo fatto così, con un amico di Sondrio, non va tramate si goza. Sì, ma se attacco l'altro guai, il pacco tutto. Sì, no, io mi ce l'ho qua, ti attendo, dovuto lasciarli fare lì. Hai visto, alla prima mi ha sentito. Sto un po' il microfono lì che stai uscendo forte, sì. Questo è il microfono originale, no? È con l'eco. No, non è l'eco del microfono, è l'eco dell'apparato questo. Ah, già è vero che ce l'ha incorporato, ce l'ha, infatti, non lo ricordavo più adesso. Aspetta che attacco l'altro, che poi vediamo se mi sento. Attenzione Catania, si ascolti il doppio run che chiama, cambio. Hola, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3, prova. Attenzione l'amico di Catania, si ascolti il doppio run che chiama, cambio. Buonasera Italia, Maria. Attenzione collega che chiama Italia, buonasera, avanti, la tua città. R165 Italia, Nord Sardegna, l'amico della Germania. Mamma mia, è bastante grande pure a Mexico e non si stazione in frequenza. Mamma mia. Ok, collega da Sardegna, buona giornata, 63 gradi, può contatto piccolo. Ciao, saluti di Germania. Papà, collega della Germania, tanti saluti anche a te. La mia città è Sassari, nord Sardegna. Vieni a fare le ferie qua, che vedi il bel mare. Pagabba, una spettona di mano, ciao amico della Germania, avanti tu. Sì, anche dalla parte mia. Tanti auguroni, se ti senti. Sì, c'è propagazione. Aspetta, ma arriviamo in tutti e due i voti, dici. Ce n'era quell'altro, anche un altro ce n'era che stava cercando Gio Maria. Sì, sul segretario chi mi ha dato. No, no, 9-10, ho sentito così. No, niente, è normale. Infatti sono corti, sono con tutto ciò che era giù messo tre radiali dall'antenna. Oh, il vento te li ha buttati giù, penso più le cornacchie che il vento, perché erano legati anche con quella lenta per prendere i grumi, c'era presente, sono legati così e me li aspettati e sono rimasti prezzoloni attaccati alla lenta tronca. Certo, quando c'è così che si buttano sopra e rimangono a penzoloni, poi si tagliano, ma sono che sono in fibra di vetro, sono quelli lì. Poi io li avevo già cambiati, li ho messi in alluminio pieno per non troncarli, me l'ha duccato un mattesi proprio dopo che ho fatto passare il bullone passante, che era più fino, l'ha troncato lì. Non c'è nulla da fare, non ci sono i radiali già. Se nulla a fare, le vedono più frizzanti che hanno già appoggiati, vada da voi e si troncano. Ma come spiccano il volo? Come spiccano il volo? Si danno lo slancio, abbassano e poi ricordo. Infatti, guardate, quando hanno le vedi, si sono appoggiati sopra, con la carabina, boom, e ne rirampi. C'è una cosa che c'è una cornacchia, deve essere quel vento ha buttato il nido da un albero che c'è, perché fanno il nido in alto in un filo lungo lungo che c'era in cortile, non dove c'è il posto avanti. Ne ha buttato una cornacchia, io l'ho vista a mezzo strada, sono andato per spostarla perché non volava, no? Per non metterla sopra. Mi hanno aggredito due cornacchie, mi sono salite, che salito mi ha detto che ce l'ha in testa, ho fatto il tempo e tempo, è entrato dentro la macchina, se non mi ha aggredito. Ehi qua mi hanno portato il cane io giù, ne ho trovato due da di nido, ne ho trovato, anzi è da uno, un cane da uno, no io, ma sì, per la salita, ci verrà la mamma in atto. Si fanno così, poi dall'altro controllano, se vuoi accostarle che è benissimo. Sono mari, che si pone in capo di beccare i luci. Infatti, sono cattivi, sono. Infatti io lasciali stare, ci vado a camminare dritto. Bene, ci sta arrivando. Abbastanza, qui si è più basso da me. Come se non si era fatto carico? No, Santa Maria di Pisa. No, Santa Maria di Pisa sono lì, quasi vicino alla Bretella. Aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando. Attenzione collega, se ascolti l'isola sarda che chiama, cambio. Risponde, va. Sì, a volte arrivano forti e poi si abbassano tutte in una volta. vanno molto su 45, infatti adesso vado a fare un giretto, anche adesso un po' di propaganda, ma un po' qua. Hola, hola. Ah, vabbè. Ha funzionato bene. Attenzione, collega, si ascolti l'isola sarda che chiama, cambi. Aspetta, non ci sono i voti, eh. Persino in America ti sentono. Infatti, sempre che forte, sto proprio con una grossa. Beh, ci sentiamo alle prossime, che vado a fare qualcosa che diretta tutte dalle strade. Vabbè, ci sentiamo Gianni, dai, alle prossime, ok. Ciao già. Serata, ciao. Sia Gian Mari. Eccoci qua. Ehi, meglio così. Beh, chi c'era? Gianni da Perù c'era, stavo parlando con questi di fuori, che arriviano in voci. Oh. Ehi, la propagazione c'è. Infatti, è forte pure. Poco fa arriviano in voci, arriviano. Evidentemente si sono potuti saltare a dare i russi. Sei con una cacciatoretta, devi darci gli irani. Aspetta che proprio c'è stazionaria qua. Qua c'era quasi 1,5, quando piove aumenta la stazione. Vuol dire che si caricano di umidità. Infatti, adesso l'ho fatto scendere, io c'ho l'accordatore, l'HP1000 della ZG a 1,1, già va bene. Infatti bisogna farle scendere ogni tanto, deve essere che con l'umidità si riempiano di umido e salgono un pochino. Ah, l'umidità è proprio, strano, non dovrebbe essere, vabbè, aumenta senz'altro, anche se l'antenna è a posto, qualche punto di più di stazione ci sono sempre. Attento, Pacchisio. Mari, io sto andando a prendere la signora prima che fosse a Eva, ci sentiamo dopo. Ehi, va d'accordo, tu. Penso che siamo già acceso qua. Attento, Pacchisio. Chi è? Pacchisio. C'è Bacchi. Dai, dunque, più importante, sento Bacchi. Oh, c'è nessuno qua.